38. I boia. Anton, vabbè. Tutto ok. Tutto ok, tutto ok, tu. Ehi, tutto ok, tutto ok. Non c'è nessuno. Tutto bene. Ma se la 27 non c'è manco un cane. Un cagnolino c'era. Ho la pancia. E qua, cuccia. Una pancia rotonda c'aveva, Antonio. Come ce l'hai tu, allora? Tutto gonfio, gonfio, ella. Attore. Ho sentito, Dice, ma che ti sta rispondendo? La pancia. Ah, beh, come mai? Dal letto ti ci ha buttato. Ci ha buttato. Me lo vedi. Madre. Ho detto, dal letto ti ci ha buttato. Sì, non sto lavorando, non sto giocando, come sei tu, mi. Sicura Gabibone, chissà cosa sei plasticelli. Allora, che mi chiamo Graziano io? Senti tu, Antonio, lavorando sta, bu, e quando mai? Sarà in campagna, sarà. Ehi, non sarai manco che anda in campagna, vai che la terra è bassa. Io non so che la terra è bassa. Diglielo tu, dove sei, me lo vedi. Senta, dire se mi sente Antonello. Io già ti sento, Giammario, forse lui non ti sente. Perché sono in magazzino, mi. Ah, in magazzino, sì. Yeah. Io già ti sente allora, se sei in magazzino sei di fronte a casa sua, mi. Non è che siete molto distanti. Se ti ascolto io, ti ascolto anche lui. Io già lo sento. Si riprende, grazie, riprende. E come me sei in magazzino, bello bene. Su punizione, sì. Mi sto preparando il cespugliatore che non mi partiva e me l'ho pulito adesso. L'ho provato, visto che già parte, tranquillo, pronto per tagliare. No, nel mio ci vogliono le membrane, li devo cambiare. L'ho già smontato, provato, pulito, non parte, ci devo cambiare le membrane. Devo prenderle alla Sassarese, agricola. Sì, io le ho cambiate. Cazzo, sono di plastica adesso, si sfasciano subito. Non parte, è tutto pulito, però manco si t'ammazza il bar. Ci vogliono le membrane. Le ho guardate, sono nuove, ma evidentemente si svenano. Sì, io le ho cambiate. Abbiamo aperto il carburatore, metto la candela nuova, visto che è partita al primo colpo. Ehi, ho finito adesso, sono nel pacchetto pronto per tagliare. Ehi, io già non li butto intanto, già rubate me li butto, e a chi scemo oggi? Figlio l'Antone. Allora, già lo fai il meccanico al lavoro, non c'è bisogno che lo faccia Graziano. No, faccio la tagliare lei, faccio la tagliare il nipote, non è taglio il figlio, che è una di... Oh. Aspetta che riprendi tu con il coratonello, dai, che metto tutto a posto, arrivato subito. Eia, eia, saranno 5 anni che non ha più tagliato, non saranno. Fai bene, grazie, fai bene. Largo è giovane, che è bello fresco, non ha giocato questo trucco, non mi interessa. Se gli vuole italiano in Italia, se no rimane così. Ma già la taglia lui, la tiene conto tutto lui adesso. Io non ha giocato, l'ha giurito, boh, chiuso, io ho finito. Fai bene, fai bene. Zitto, magone. E allora, diglielo anche tu. Zitto, magone. Ah, c'è a me là, un cino. Ma a te lo bello. Ciao, José. Beh, magone, cazzo, a ti fai sentire ogni tanto, tu no, eh? Stavo sistemando un mobile, ho dovuto smontarlo, cazzo, per salircelo a casa, già pesava poco già. Un mobile letto mi hanno regalato, l'ho dovuto tutto smontare, mi sono affallato per ripiazzarlo, all'asura. Capito? Ho finito poco fa, ho tutte le braccia, mi fanno male. Vabbè, dove l'hai messo in camera? In camera me l'ho messo. Davanti al letto che ho io. scusi, nel caso viene qualcun altro, c'è il letto già pronto, faccio altro che aprirlo e basta, sposto il tavolo e apro il letto e si dorme in due in cameretta. L'ho fatto bene. E io mobiletto basso, mi dico, quindi sopra ci ho messo il televisore, ci ho messo così me lo guardo frontale qualche volta. Ho fatto bene. E tu, non sei riuscito a farti la passeggiata? No, sono andato dal barbiere. Dal barbiere? Sì, ho tagliato il capello. Ah? Ho capito, meglio così. Alle tre, sono andato alle tre, alle tre mezza. Cappa. Sono contento. Cosa lei dà? Ma hai telefonato a quella persona, no? No, mi sono guardato stamattina il telegiornale e è uscito il coso dell'inclusione sociale dei 55 anni. Devono darla fra una settimana e mezza. A chi ha 55 anni, a chi ha un figlio a carico, due figli e cose del genere. Capito? L'hanno già stanziato i soldi dello Stato, era ora. Adesso vediamo se ci rientro io. Con un foglio ISE che lunedì faccio. Tanto in una settimana me lo danno. Consegno tutto, se ci rientro è bene, se no a luglio. Se ne parla a luglio. Ho capito. E noi stiamo aspettando ancora con le 400 euro, cazzo, ci devono dare. Speriamo che vi diano, bisognerebbe guardare su internet e vedere un po' se c'è quello della regione, che noi avevamo quello della regione, non quello statale, che è una cosa diversa, capito? Però quello di pratica, quello statale, si è obbligato a tagliare, capito? Ti danno sì soldi, però quando ti chiamano, c'è il collocamento, ti chiamano a lavorare e devi andarci. Non so che è così. No, ma io stiamo aspettando quelle 400 euro che dobbiamo finire il mese, hai capito? Quelle 400 euro. Quello per finire tutto quanto, del rete. E quelli dovrebbero averli stanziati la regione. Adesso vediamo, lo sai che se ne fottono loro, capito? Di perché bisogno. Non è così facile, no? Prima devono chiedere i soldi al coso, alla comunità economica europea, poi da lì vengono trasferiti alla regione, la regione al comune, il comune poi lo distribuisce, capito? Prima i costi, gli zingari, poi lo danno alla, come si chiama, a questi extracomunitari e poi tocca a noi, anche c'è famiglie numerose. Dopo che ci sono le famiglie numerose, allora ci sono quelli che con due persone. E vabbè, adesso vediamo, saprai io cosa ti dico. Giuseppe, purtroppo è così, non ci puoi fare nulla, no? È un blanco di magnacci sono. Adesso ti danno per il periodo delle elezioni, per marzo ti danno, capito, tutti i soldi assieme, così vai a votare. Se no la gente sta tranquilla che non ci va a votare, se lo vede di nato, non ti preoccupare. Tutto fatto a scopo per prendercela in culo, a prenderci per il culo come hanno fatto sempre il comune. Vabbè là, che adesso sono attaccato qua al computer per metterlo in movimento, già era un giorno senza provare il computer. Provalo quel computer. Già c'ho le memorie, mi sembra che sono uguali di quel computerino che c'hai tu. Ne ho trovato 3 o 4 se non mi ricordo male. Dentro una scatola li ho messi. Adesso non so se sono più ampie o cosa diavolo sono. Comunque sono precise. Ma di che cosa? Il tablet? No, tablet no. Oh, solo per il computer. Per carità. Cazzo mi ammario, a quella vivo Sono andato sei da Città Mercato. Mario, bavato. Poi a me si è portato un mobile su, l'ho lasciato ieri perché era pesante, dovevo smontarlo, un mobile letto. A piazzarlo, non te lo ricordo, a smontarlo già è facile, ma a piazzarlo, a rasura a me. Se infilavi le viti da una parte non andavano dall'altra e quindi dovevi centrare i buchi. Alla fine mi ha tirato le balle, ci ho messo un coso al centro per fare la spessore, no? E piano piano sono riuscito a infilarci le viti per poterlo chiudere. Capito? Ho finito poco fa, adesso mi devo andare alla in farmacia per prendere della roba e poi rientro a casa. Pare molto. Cosa è tanto lei che mi stava parlando mia moglie, mi ha chiesto cosa? Sì, stavo parlando con Mario e poi è sparito, le veste che gli è sceso la sincope. No, non la sento io a Mario. La 27 accesa ce l'ha, io l'ho accesa poco fa. E se non c'è nessuno, non accende a fare la 27, ma... Uiaia. Non accende a fare. Avanti, Giuseppe. Sì, io sono qua. Non ti sento, Giuseppe, sollevati. Ho detto che sono qua. Vedete un punto buono, al centro della camera. Ha detto che è qua, Antone. In quale? A pigliarla in culo, mi. Ah, è qua. Ah, ho capito, ho capito. Cosa buona hai mangiato, Giussi? Bello bene. Sì, vi ho mangiato. Quello che ho comprato l'altro giorno, dallo spin. Vi ho mangiato oggi. E cosa? I zevi. Ah, fritti. Sono buoni. No, io ce li avevo. Avanti lì. No, buoni, Vedi grassottelli buoni. Ah, già erano buoni, già li ho fritti. In padella. La salute c'ho ravioli, la magna. Buoni, buoni. No, io ho fatto pezzatino di... di bovino. E gli ha messo il tuo avai un bel tubo che si sta fanno, in due mesi, già è buono. È buono, sì. La minestra già è buona l'inverno. Questa di verdure fa bene. Spezzatino fatto, spezzatino, patate e carne. Ho capito che ho mangiato spezzatino. Ho detto che il minestrone è anche buono nel caso non mangi spezzatino. Hai capito d'inverno, mi? Che vuole, che vuole. L'altro giorno l'ho fatto, però ho fatto pasta, fagioli, patate e carote. Buona rete, no fagioli, lenticchie ho messo. Buona rete, la succiatura. A minestra di bocco, gli italini barilla, quelli piccolini. Sono buoni anche quelli, hanno solo a gratis. Sì. A gratis. Pagati l'altro, faccia gratis. E io vado io a comprare a gratis il 2 o il 3 di febbraio. Ah, gli danno pure a gratis qui, io già lo so, pure la mia nipote glieli danno a gratis. Già lo credo, giallo. Ehi, quando ne ha molta, che gliene danno troppa. Me ne dà anche a me, che è buona. Mare la fammi. Che gli spaghetti mi piacciono, ma le pennette no però, Dallo spì, parecchie volte mi capita che mi danno la roba. Quando la roba che è in scadenza me la regalano. Non so quante cose ci buttano. Non è l'idea cioccolati. Di tutto. E chi male, che è buona, già lo so già. Che a parecchia gente la danno direttamente anche da lì, dal mio vicino, ma prende la sera al padrone e già lo so la danno. Ma se no ci passano quelli della Croce Rossa che poi la distribuiscono alle suore e le suore le danno ai pubblici e quelli che vanno là. Ma con la metà di quello che prendo dove arriva non ti preoccupare che già l'ho visto io. Tra loro si dividono la roba buona, poi il resto lo danno a noi. Quello già lo so per saputo. Già me l'hanno detto, perché conosco gente che ci va quasi tutti i giorni, per non dire tutti i giorni. Anche il sabato qua vicino vanno dalle suore. Mi sembra il sabato danno il pane. Quello lo danno in coso, in via... dove c'era la questura prima. Danno il pane e poi non mi dicono cosa. Non vado io. Non voglio giocare lì, stare a svegliare mattina e sera lì. Non lì solo, non lì, no, ma anche qui alle suore che ci sono alla grande amica, all'incrocio che c'è la sua Santa Maria di Pisa. Lì ci sono le suore, c'è la zia. E lì la loga la Paranovi. Ma formemi, no, forme di quelle 5 o 6 lavora te le danno, io lo so già. Noi stavamo regalando, un giorno Mario me lo stava regalando, dice ne vuoi 5 o 6, vai, io tu non ne voglio, vai. Aspetta che vado in farmacia, poi torno subito, caro. Antonello, Antone. Dimmi. Ha visto che la siamo, si è ricaricata la batteria e ha pesati, capito? Non può entrare. Vabbè, non c'è problema, tanto sto uscendo un attimo in farmacia, poi già rientro il 27, dai. Vabbè. Toca!